Facciamo la prova in bassa potenza, guarda, 938, vado da 1 kW a 570 watt, dai. Allora, ti si illumina la tacchetta quasi al 920, dai, in picchi positivi. Quindi 920 non lo becchi piano piano, però lo becchi con lo spunto in positivo. Ok, perfetto. 570 watt, 1 kW. Perfetto. L'unica cosa che bisogna trovare qua è un trimerino dello strumentino del 1000 A, perché questo strumento, questo trimmer l'ho risaldato, l'ho fatto, l'ho controllato, però è andato, balla. Questo è il problema che avevi quando ti ha sfiammato, questo è il problema, il trimmer. Sì, perché prima succedeva, cioè funzionava, me ne accorgevo anche accordando lì i picchi di modulazione, tutto quanto andava bene prima, non andava alla massima potenza, voleva regolato. Ok, no, niente, questo è il trimmer che non va, bisogna trovare il trimmerino. Un trimmerino al momento lo usi così, il tasto stand by, la luce, queste cose qua non ti lampeggiano più, anche se lo prendi a pugni, e niente, il bassa alta potenza funziona perfettamente, l'amplificatore è a posto, rifate alcuni circuiti dei condensatori, ti ho rifatto delle saldature nelle valvole, perché erano saldature ritoccate e fatte male pure, e poi nel condensatore, in quel transistorino che hai nella piastrina dove attaccano tutte le luci del frontale. Quindi bisogna solo trovare un trimmerino di questa capacità, con queste specifiche, e installarlo. Io ho cercato e non ne ho proprio. Ho trovato l'interruttore suo, deve essere, l'ho recuperato da che luogo, lo mi tavolo in mano. E niente, gliel'ho messo, ed è a posto. E poi gli ho messo un pezzo di rame smaltato, un pezzo di circuito. Vedi, sono sempre con 1 kW, non batte ciglio, mi abbassa giù da 2 minuti e mezzo. Ciao padre. Guarda un po', 1, 2, 3, prova. Rumore? Guarda un po', c'è rumore? Sì, guarda bene, se c'è rumore poi ti delibero per... Vai. Guarda un po'. No, è pulita. Ho ripiazzato l'altro microfono, dove ti dico. Comunque, hai visto, ho fatto passaggio lungo. Niente. Comunque, il primo bisogna trovare. Vabbè, dai, momentaneamente si usa così. Esatto. Tanto c'è lo strumento esterno. Sì, infatti, ho lo strumento esterno, quindi non da problema. Ti ringrazio per il momento, dai, già ci sentiamo così. Vai tranquillo. Via, ci siamo dopo. Sono... dai, ceno e poi... facciamo una chiacchierata, così lo provo anche un pochino. Abbi partenza, se non c'è amplificazione, userò il baracchino, però devo provarlo, dai. Rimani attenuato, se altrimenti ti spacco di sviter, perché lo devo accendere a tradimento. Sì, e poi mi aggiusta anche quello, non è un problema. Ahi, va bene. Dai, e comunque rimani attenuato e dai. Fammi un corso di radio di là, dove corso di radio è bello, non l'abbiamo mai detto, colpo di radio. Fammi un colpo di radio quando sei operativo, tanto io vedo adesso cena e poi lo lascio accendere. Ciao, a dopo, buona cena a te, corre, a dopo. Ciao, ciao, tanto io mi devo docciare prima di mangiare. D'accordo, ma più tardi. Dai, ciao. E a dopo. Ciao.